Le elezioni in Kenya, previste per l'8 agosto, si annunciano tese, ma anche il 4 si vota in Ruanda, nel nord della Nigeria a Maiduguri, per capire la tragica eredità lasciata da Boko Haram e il braccio di ferro tra USA e Russia. Benvenuti in questo programma. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. The big thing that's happened over the last few days is the killing of the deputy head. Any attack on a university will automatically attract global attention. Buona giornata, buon pomeriggio, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Sono le 16.05, ben ritrovati. Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci. Con me in redazione vi sono Antonio Talia e Elisa Pancaldi, mentre in regia c'è Pietro Lacorte. Le coordinate per interagire con noi: 349-238-6666 per gli sms, oppure il numero vale anche per WhatsApp, quindi domande, critiche e commenti le potete fare qui oppure sulla pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. Twittate pure all'indirizzo Giampaz oppure Nessun Luogo 24. Infine vi ricordo anche che siamo in replica questa sera alle 20 e domattina alle 6 del mattino, appunto. In più, se vi siete persi questo fiume di Nessun Luogo Lontano di esteri, potete ripescarci nel podcast del sito radio24.it. Allora, ieri abbiamo aperto una pagina piuttosto importante parlando della Repubblica Democratica del Congo. Siccome abbiamo il bilancio di quelle manifestazioni che si sono svolte in parecchie città congolesi, io vi riporto proprio lì. E vi riporto in Repubblica Democratica del Congo perché Human Rights Watch, con la portavoce Ida Sawyer, che è una analista ricercatrice che lavora da tempo nel paese e più volte ha avuto, come dire, idiosincrasie col regime di Kabila, è stata un paio di volte almeno, le è stato rifiutato l'ingresso nel paese, ha conteggiato in almeno 128 le persone arrestate ieri, parecchi feriti, ancora non è dato il numero certo, alcuni di loro sono gravi, in particolare a Bukavu. La polizia, siamo nel sud del Kivu, capitale del sud Kivu, ha utilizzato pallottole e non solo lacrimogeni, e quindi il bilancio è ancora in divenire. Ieri pomeriggio, oltre alla voce di Donatella Rostagno di Congo Research Group, vi ho fatto sentire brevemente la voce di Chris Berutz, che è un analista indipendente, esperto del paese, un utile strumento di analisi per capire cosa sta accadendo in Congo e cosa accadrà soprattutto nei prossimi mesi, è il suo libro. Si chiama Congo's Violent Peace, Conflict and Struggle Sees the Great African War. Già il Congo, il titolo del libro, scusate, è un piccolo paradosso, è un ossimoro, la pace violenta del Congo. Ieri vi dicevo, vi ho fatto sentire un estratto dell'intervista, adesso ve la ripropongo integralmente. Sentite la voce di Chris sugli ultimi avvenimenti. Well, I think that the really important period will come, will start let's say at the 1st of September. Sarà a settembre il vero D-Day. Ora siamo 8 mesi dopo il 19 dicembre, che era la scadenza del mandato presidenziale del presidente Kabila. E c'è ora un accordo secondo il quale Kabila sarà rimpiazzato da un successore eletto entro il prossimo dicembre. Il problema è che sappiamo già che non sarà possibile organizzare elezioni. Il senso delle proteste di oggi è che, elezioni o non elezioni, Kabila deve andarsene. Questa è solo la prima di una lunga serie di manifestazioni, perché settembre è sempre un mese difficile per i cittadini congolesi con la ripresa delle scuole. Molte famiglie hanno un numero elevato di bambini e la scuola è costosa. L'economia sta precipitando velocemente e quindi sarà un mese estremamente delicato. Quindi ci si aspetta un climax del sentimento avverso a Kabila da settembre fino a dicembre. Oggi è il primo passo. Ma il vero confronto tra Kabila e il paese, inclusa l'opposizione, partirà a settembre. La Repubblica Democratica del Congo è un paese fatto di grandi paradossi e di grandi contraddizioni. C'è una ricchezza gigantesca nel sottosuolo, una ricchezza gigantesca nelle mani del presidente Kabila e un'estrema povertà in ampie fasce della popolazione. Questi stessi paradossi sono racchiusi nel titolo del libro che vi suggerivo. Ho solleticato Chris Berutz nel tentare di spiegare meglio qual è questa grande contraddizione che regna in Congo. Sentite cosa mi ha detto. Yes, there's a contradiction, indeed. Sì, c'è davvero una contraddizione nella storia congolese e c'è anche nel titolo del libro. Il Congo ha attraversato due guerre aperte nella sua recente storia e ora una fase politica di attesa. La mia tesi è che il Congo è stato considerato troppo presto un paese in una fase di post-conflitto. Il conflitto non è mai terminato in Congo. Ecco perché la pace che avrebbe dovuto regnare dopo il 2003 e soprattutto dopo il 2006 non è mai stata una vera pace, ma solo una pace violenta, appunto. La guerra aperta e dichiarata è diventato un conflitto a bassa intensità, ma molto lungo. Questa è la grande contraddizione e il dramma del Congo. E se volete, chi incarna queste grandi contraddizioni congolesi ha un nome, un cognome e anche una faccia, quella del presidente Joseph Kabila, presidente che non ha esitato a tentare di violentare la Costituzione per garantirsi un terzo mandato. Questo è un po' il nodo cruciale di quello che sta accadendo nel paese. Alla domanda se Kabila mollerà definitivamente il potere o ci saranno ancora contestazioni di piazza e eventualmente, lo speriamo ovviamente di no, violenze, sentite cosa dice l'analista Chris Berutz. Io spero ancora in una soluzione pacifica, ma tutti i segni vanno nella direzione opposta, cioè che Kabila rimanga al potere. Kabila vuole il terzo mandato, vuole continuare a governare, ma quando parli con la gente, per strada, a Kinshasa o nei villaggi in Kivu, la popolazione è arrabbiata. Ed è arrabbiata perché sente di vivere nelle stesse condizioni di 20 anni fa, quando Mobutu lasciò il paese. Da allora niente è realmente cambiato nella loro vita quotidiana. E loro sono nelle stesse condizioni perché il paese è governato nello stesso modo. La classe politica al potere ci ha promesso di cambiare le cose. Allora non ha potuto o voluto farlo per 16 lunghi anni. In entrambi i casi la gente è stanca. I congolesi non credono più a Kabila. La popolazione congolese non è stupida. E credo che se Kabila continuerà a stare al potere, la violenza sarà sfortunatamente inevitabile. Intanto la risposta della società civile, in particolare del movimento Lucha, Lutte pour le Changement, lotta per il cambiamento, se andate su Twitter e cercate l'hashtag appunto Lucha troverete un po' di notizie sul Congo. Ebbene, la società civile congolese promette già da domani nuove forme di protesta più silenziose. L'hashtag adesso che stanno utilizzando è Ville Morte, cioè città morta. Vedremo nei prossimi giorni appunto come andrà avanti questo braccio di ferro tra la popolazione delle principali città congolesi e il presidente Kabila. Certo, non stiamo facendo i conti con un terzo soggetto, che è quello che dovrebbe rimpiazzare se Kabila dovesse rassegnare il potere, e cioè il leader dell'opposizione. Quale nome potrebbe farsi avanti? Secondo Chris Berutz, sentiamo. Il punto è che se senti i congolesi che sono, come dicevo, arrabbiati, loro dicono: non vogliamo cambiare solo il pilota, vogliamo cambiare la macchina. Non vogliono un sistema che vada a rimpiazzare il vecchio sistema. Vogliono un sistema migliore e più trasparente. Per fare questo ci vuole un'opposizione coesa, allargata, che bilanci le diverse anime al suo interno. Non credo che sia questa la questione di oggi. Certo, Kamere è un importante leader, così come la famiglia di Etienne Tshisekedi. Ma il punto è capire quale può essere la più efficace coalizione dell'opposizione. E poi la coalizione deciderà chi sarà il leader a guidarla. Parlare di futura leadership post-Kabila adesso è un po' troppo presto. E questa era la voce di Chris Berutz, analista indipendente, autore di Congo's Violent Peace, Conflict and Struggle Since the Great African War. Se leggete in inglese è un libro che vi consiglio caldamente, sono poche le pubblicazioni su questo importante paese africano, questa è una di quelle e direi che è da leggere. Tra l'altro anticipo un po' di sms che magari potrebbe state già pensando di inviare al 349-238-6666. Beh, il Congo è lontano in fondo quanto e come ci riguarda. Il Congo è vero che è lontano, però ricordatevi per esempio il cordone ombelicale che lega il Congo ex Zaire ai suoi padri, con cui c'è un rapporto assolutamente controverso, i coloni belgi, c'è una diaspora in Belgio molto molto importante, per cui ogni volta che raccontiamo un paese africano inevitabilmente abbiamo un riflesso anche europeo. Chris Berutz raccontava di quello che potrebbe essere l'antagonista del presidente Joseph Kabila. Adesso vi racconto di Kabila e del suo gigantesco salvadanaio. Ok, forse sono stato un po' irriverente, però se leggete il rapporto di Congo Research Group, di cui avete sentito la voce della vice direttrice ieri, Donatella Rostagno, ebbene il think tank guidato da Jason Stearns, che è un altro grande analista, che ha scritto un altro testo che vi consiglio, sembra consigli di lettura quest'oggi, ma è Dancing in the Glory of Monsters, un libro eccezionale sul Congo. Ebbene, negli ultimi 20 mesi il gruppo di ricerca di base a New York ha cercato di catalogare la ricchezza del presidente Kabila, non solo lui ma anche la moglie, le figlie, e si è scoperto che ha un impero che vale centinaia di milioni di dollari. Allora, siccome a me piace tantissimo dare i numeri, vi cito alcuni numeri appunto di questo rapporto. Direttamente, parzialmente o totalmente o sotto prestanome, la famiglia Kabila avrebbe più di 80 compagnie e business diversi. Stiamo parlando sia nella Repubblica Democratica del Congo che all'estero. Una concessione di diamanti di 450 miglia lungo il confine angolano, ma il business spazia anche non solo nel settore minerario, ma anche quello delle infrastrutture, anche quello dell'agricoltura. Una stima parla di centinaia di milioni di dollari in introiti dal 2003 fino ad oggi. Naturalmente, siccome in tempi di crisi la parola chiave è diversificazione, la famiglia Kabila non si è fatta mancare asset anche in altri settori che non siano quello strettamente minerario oppure dello sfruttamento agricolo. E così, a leggere i documenti, preciso, sono tutti documenti ufficiali, quindi fonti aperte, vi sono anche proprietà immobiliari, vi sono banche, telecomunicazioni e linee aeree, senza dimenticare alcune delle televisioni che sono o di proprietà o controllate direttamente dalla famiglia Kabila. Allora, evidentemente, leggendo questo rapporto si ha un'idea di quanto difficilmente il presidente Kabila vorrà a dicembre lasciare il potere e di quanto tesa potrebbe diventare la situazione in Repubblica Democratica del Congo. Però, a proposito di disparità e ricchezze, vi racconto, perché oggi spulciando sulla stampa estera ho trovato un ritratto spietato, impietoso, della capitale Kinshasa. È uscita oggi su Le Monde, lo trovate anche sul sito. Questo reportage firmato da Le Monde in particolare si concentra su questa gigantesca forbice, intanto in una città che cresce a dismisura. Pensate che non è dato calcolare la popolazione, il Congo ha del grossissimi problemi anche in termini anagrafici, nel senso che è difficile registrare le persone, questo crea anche dei problemi ovviamente, come immaginate, in fase elettorale. Secondo le stime Kinshasa avrebbe 12 milioni di abitanti, però può essere che siano 15 o addirittura 20 milioni, è uno dei grandi misteri che a volte questa grande capitale. E la forbice, la disparità è immediatamente evidente, chi c'è stato lo sa bene, nel quartiere La Gombe. La Gombe è il quartiere dove risiedono i diplomatici, dove risiedono i grandi politici, è il quartiere più ricco, è quello tenuto bene, le strade sono pulite. La densità di abitanti lì è di 1700 per chilometro quadrato, appena uscite da quel quartiere la densità diventa di 100.000 abitanti per chilometro quadrato. These are the cries of the children. Allora, vi ricordo ricordo 349-238-6666 per commenti, domande e suggerimenti, oppure critiche, perché no, gli sms ma anche WhatsApp. Poi siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, oppure Giampaz, e la pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Se poi volete guardare la diretta Facebook, la pagina Facebook è quella di Radio 24. Restiamo in Africa perché vi sono due importanti appuntamenti elettorali in due importanti paesi nei prossimi giorni, uno il Kenya e l'altro è il Ruanda. Allora, in Ruanda, piccolo paese che confina anche con la Repubblica Democratica del Congo, si vota per il nuovo presidente il 4 agosto, quindi fra tre giorni. Paul Kagame, il presidente, si ripresenta per il terzo mandato, dopo che due anni fa, con un referendum, plebiscito pazzesco, si era assicurato un cambio nella Costituzione per appunto potersi ripresentare con il terzo mandato. E questo fatto, questo dossier del terzo mandato, come dire, unisce sia la Repubblica Democratica del Congo che il Burundi, che il Ruanda, tutta un po' la zona dei Grandi Laghi, che vede questi leader autoritari molto forti, spesso con background militare, ormai al potere da decenni. Perché è importante il Ruanda? Perché è certamente la chiave di violino di tutta quell'area, è un paese cruciale per la stabilità dell'intera regione, la regione appunto dei Grandi Laghi, Congo, Uganda, Burundi. La loro pace, la loro stabilità dipendono fortemente dal Ruanda stesso, che è stato rinominato per la sua pace e stabilità la Svizzera africana. Chi studia, legge, si occupa un po' di storia africana ricorderà certamente il genocidio del 94. Il paese ne è uscito in maniera da alcuni giudicata non matura. Il tema resta comunque un tabù. Il ruolo di grande vittima non è mai stato messo in discussione, così come è tabù la ritorsione contro gli Hutu operata dalle forze Tutsi. C'era Paul Kagame che scese dall'Uganda per liberare appunto i Tutsi, la capitale Kigali, alla guida del fronte patriottico ruandese. La tensione etnica è sempre latente, anche se in questo senso il governo di Kigali, come dire, pone l'accento molto su quell'aspetto, probabilmente per conservare il potere, per conservare quel ruolo di vittima che anche la comunità internazionale gli ha attribuito. Vedremo se con il terzo mandato anche Kagame, come dire, attuerà una svolta anche, se volete, culturale, insomma, riguardo alla lettura della storia, che è stata, che è ancora molto molto controversa. Questo fra tre giorni, mentre l'8 si vota in Kenya. Andiamo lì. NTV can confirm that Chris Msando had officially reported to the police in Nairobi that his life was in danger. He had reported to the DCIO, who took over the complaint and promised to investigate the matter. Allora, andiamo in Kenya perché, come avete sentito dai titoli di un media, di un sito congolese, sabato scorso è stato trovato morto Chris Msando, che era l'ingegnere informatico vice capo della commissione elettorale responsabile dell'organizzazione elettronica delle elezioni. Se volete saperne più, c'è anche un articolo di Massimo Alberizzi sul Corriere della Sera che riporta appunto da ieri questa notizia. Il corpo è stato riconosciuto solamente ieri. Perché è importante e drammatico questo assassinio? Intanto perché Chris Msando è stato trovato morto, ma con evidenti segni di tortura. Secondo, perché in qualche modo era la figura di riferimento per questo nuovo sistema di controllo elettronico delle votazioni, che nei pensieri della commissione elettorale dovrebbe fugare il campo e ogni dubbio da possibili brogli, quegli stessi brogli che 5 anni fa, anzi ormai 11 anni fa, nella due tornate elettorali fa, aveva scatenato violenze pazzesche, 1200 morti. I più attenti se lo ricorderanno. Perché parliamo di Kenya? Intanto perché è una meta turistica molto importante, che ha vissuto un declino incredibile negli ultimi anni, perché la costa evidentemente non è più sicura. Questo perché? Perché l'impegno militare del Kenya nella vicina Somalia, a nord, contro i militanti di Al-Shabaab, evidentemente ha avuto delle ripercussioni, e tutta la zona a confine tra Kenya e Somalia è oggetto di incursioni e di attacchi. E poi perché è un paese che in Africa è molto molto importante. Nairobi è una capitale importante, è un centro nevralgico di servizi, di informazioni e anche economico. I candidati sono il presidente uscente Uhuru Kenyatta e Raila Odinga. Si fronteggiano, Kenyatta è quello uscente. Abbiamo raggiunto Daniel Finnan, che è un giornalista esperto di questioni africane, lavora a Radio France International all'English Service. Lui sta partendo domani per Nairobi, tra poche ore partirà, sta già seguendo la questione. A lui abbiamo chiesto qual è la sensazione che ha e che situazione si troverà in Kenya. L'avvenimento più grave avvenuto negli ultimi due giorni è l'omicidio del vice direttore responsabile per l'IT della Commissione elettorale keniana. Ora, questo evento è di importanza fondamentale, perché in queste elezioni in Kenya si useranno una serie di nuove tecnologie e strumenti per controllare l'identità degli elettori e per assicurarsi della correttezza delle liste elettorali. Quindi, ovviamente, il fatto che il vice direttore responsabile di queste operazioni sia stato assassinato sta aumentando la preoccupazione dei keniani e di chi seguirà le elezioni. La vittima era una delle poche persone che conosceva la posizione dei server e i dettagli delle password, uno dei pochi che comprendeva come funzionava il sistema nel suo complesso. Erano previste delle prove generali del funzionamento del sistema, che ovviamente sono state rimandate. Questo omicidio in Kenya è su tutte le prime pagine dei giornali e TG. La polizia sta indagando. La voce che avete sentito è quella di Daniel Finnan, che è un collega di Radio France International, il suo English Service, che ha avuto il piacere di incrociare in un'altra tornata elettorale del 2011 a Kinshasa, appunto per le elezioni congolesi, un'altra tornata elettorale che era sfociata in violenze. È la stessa paura che alberga nei cuori di tanti keniani. Perché? Perché i due candidati presidenti negli ultimi mesi si sono lasciati andare a discorsi che erano piuttosto muscolari, i toni erano piuttosto violenti, quindi si temono scontri dopo le elezioni. Sentite cosa dice Daniel Finnan. Certamente, il timore peggiore è che si ripeta quanto avvenuto nel 2007. Tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, subito dopo le elezioni, scoppiarono scontri e proteste, nelle quali vennero uccise oltre 1000 persone. Ora, le ultime elezioni nel 2013 si sono svolte pacificamente. Fatta eccezione per qualche incidente isolato, non si è assistito a violenze generalizzate come 10 anni fa. E al momento si stanno applicando le misure per evitare che i politici facciano richiami alla violenza nei loro discorsi. Tutto questo avviene in un contesto preciso, perché le violenze del 2007-2008 si conclusero davanti alla Corte Penale Internazionale e sia l'attuale presidente Kenyatta che il suo vice Ruto furono imputati all'AIA per quel caso. Nelle elezioni del 2013 entrambi hanno sfruttato l'accaduto dipingendolo come una specie di cospirazione internazionale contro il Kenya, e la Jubilee Alliance, ossia il partito di Kenyatta e Ruto al governo, aveva impostato la sua campagna sul fatto che l'Occidente avesse deliberatamente portato il Kenya davanti alla Corte dell'AIA. Il caso è stato poi chiuso senza sanzioni, ma le preoccupazioni su eventuali violenze dopo le elezioni rimangono. Questa è la fotografia della competizione elettorale che si preannuncia tesa per tutti i motivi che avete sentito, che ci ha restituito Daniel Finnan in partenza per Nairobi, collega di RFI, Radio France International English Service. Manca un piccolo dettaglio, se volete, che è un po' il terreno sul quale i due candidati si scontrano. Il grosso tema in Kenya adesso sono, uno, la sicurezza, lo avete sentito, gli scontri, le incursioni con Al-Shabaab e l'impegno militare in Somalia, secondo le grandi infrastrutture che Uhuru Kenyatta aveva iniziato a lanciare. Come molto spesso accade nei paesi africani, la mancanza di infrastrutture diventa evidentemente un vessillo elettorale importante che viene sbandierato dai due presidenti, dai due contendenti. Adesso, in tema, a proposito di economia, andiamo a sentire come vanno le borse. Poi di nuovo nessun luogo sarà lontano. Ma cos'è quest'estate? Semplice, l'appuntamento estivo con l'attualità di Radio 24. Le storie di cronaca più importanti, i numeri di un'Italia in continuo cambiamento e un po' di leggerezza sotto l'ombrellone. Ma cos'è quest'estate? Con Elisabetta Fiorito, Roberta Giordano e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 8 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Nessun luogo. Nessun luogo è lontano.

mise in chiaro che avrebbe contrastato le rivolte. La guerra contro il terrore è uno dei punti cardinali del programma del governo. L'università, dunque, è diventato il modo per mettere in imbarazzo il governo di Muhammadu Buhari, che sostiene di aver saputo contrastare le insurrezioni. Quindi, se quelli di Boko Haram obbligano le università a chiudere, avranno una rivincita sul governo e diranno: voi non avete fatto nulla, noi vi abbiamo distrutto il sistema. E in realtà quello che fino adesso è stato distrutto o è in via di distruzione è un po' la catena logistica di Boko Haram, che si è dovuta ritirare verso le zone di confine, verso il Camerun, verso il Chad. Il lago Chad sono zone di difficile accesso, dove la Civilian Joint Task, la milizia di autodifesa dei cittadini con l'esercito nigeriano, ma anche di altri paesi limitrofi, Camerun, Chad e Niger, sono appunto a caccia degli islamisti di Boko Haram. Il leader Abubakar Shekau, che era stato dato morto per un sacco di volte, come spesso capita, no, questi leggendari e famigerati leader di formazioni terroriste, sta cercando di serrare evidentemente i ranghi. Tra i super ricercati, anche entrando nella sede della milizia di autodifesa, mi hanno mostrato questo grosso tabellone con tutti i volti dei grandi ricercati. C'è anche il figlio giovanissimo di Mohamed Yusuf, che fu assassinato, fu un'esecuzione extragiudiziale da parte delle forze di sicurezza nigeriane nel 2008. Da lì l'escalation di violenza e di terrore appunto da parte di Boko Haram. Due anni fa, con la presidenza Buhari, l'innesto della quinta e operazioni militari su larga scala stanno facendo ritornare la pace nel nord-est della Nigeria. Adesso da quelle strade polverose andiamo invece sulle strade italiane, vediamo il traffico e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è Lontano. ...16.45, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ultima parte di Nessun Luogo è Lontano, dopo due pagine, lunghe, dedicate alle elezioni africane. Ho letto anche un po' di sms ricchi di scoramento da parte di voi ascoltatori. Per esempio, uno scrive: purtroppo le elezioni in Africa sono inutili e servono solo per riaffermare lo status quo dei soliti noti. Poi c'è chi evoca invece decisioni da parte della Cina, di grandi multinazionali sulla politica africana. In parte sono d'accordo, in parte credo che i governi africani, ma anche i popoli africani, abbiano serie responsabilità e certe prese di coscienza e prese di strade, di piazze da parte per esempio dei congolesi dimostrano che esiste ormai una maturità anche politica, e forse alcune popolazioni africane sono stanche di leader corrotti che per decenni hanno governato, molto spesso dirottando fondi pubblici, aiuti internazionali. C'è tutta la letteratura, sapete, di Dambisa Moyo sugli aiuti di Stato, che appunto cerca di porre un freno a questo fiume di denaro che, invece di finire a cascata nei paesi africani, finisce nelle tasche dei soliti noti, per esempio il presidente Kabila e il suo gigantesco salvadanaio. Allora, cambiamo decisamente argomento. Dobbiamo parlare di un braccio di ferro politico, quello tra Stati Uniti e Russia. Quindi Pietro La Corte, per favore, sii muscolare anche tu nella base musicale. Se dovessimo dare un titolo a questa storia d'amore, non so, amore e odio forse, potremmo dire idillio interrotto, luna di miele interrotta. Adesso non lo so, chiederò lumi e aiuto al prossimo ospite, che è Francesco Costa, che è vice direttore del Post, si occupa da tempo di politica statunitense, ha una sua newsletter, francescocosta.net. Francesco, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi, eccomi. Allora, Francesco, prima di addentrarci nella... Hai sentito, la musica era abbastanza potente, muscolare, era in qualche modo un ironico omaggio alle ultime mosse di Donald Trump. Io vi farei sentire un commento e una sorta di editoriale di Anna Zafesova, giornalista della Stampa, che ricapitola in qualche modo il sentimento russo dopo... quello che è successo, cosa è accaduto? Un'operazione diplomatica eclatante, perché oltre 750 diplomatici statunitensi, compresi anche personale russo in realtà, quindi la cosa è stata un po' gonfiata, sono stati espulsi da Mosca. Tutto ciò dopo che Trump ha annunciato un inasprimento delle sanzioni e, doppio salto mortale, la Russia ha annunciato un ingigantimento, scusate il termine, non è esattamente elegante, di esercitazioni militari a fine anno ai suoi confini. Quindi dire luna di miele interrotta direi che forse è un eufemismo. Scusate, sentiamo Anna Zafesova, poi torno da te, Francesco Costa. Putin è stato fin dall'inizio anche abbastanza prudente sul personaggio Trump, una battuta che è circolata molto quando lui aveva detto più o meno un anno fa che Trump sicuramente è un personaggio brillante, e cosa che è stata interpretata, complice anche una traduzione che si prestava a varie interpretazioni, come un apprezzamento. Detto da Putin e considerata la parola che ha usato, brillante non era necessariamente un apprezzamento, cioè voleva dire che era un personaggio molto particolare, sicuramente originale, ma questo non implicava che fosse positivo. Successivamente all'elezione di Donald Trump, Putin è stato molto prudente, molto più prudente tra l'altro di molti suoi seguaci e collaboratori rispetto alla possibilità di un'intesa con The Donald, però comunque gli ha fatto delle grandi aperture di credito, qui soprattutto non reagendo alle ultime sanzioni imposte da Barack Obama allo scadere dell'anno scorso per il Russia Gate, per l'ingerenza nelle elezioni, come a dire tanto il presidente uscente non conta più niente e faccio un gesto di buona volontà per cui il presidente entrante entra in carica subito avendo già un credito con lui, attenzione, e quindi infatti questo credito è stato riscosso adesso, cioè da che sempre per le solite regole della simmetria Putin avrebbe dovuto espellere a dicembre 35 diplomatici americani e ne espelle adesso 755, quindi anche con gli interessi. Naturalmente si scherza, Francesco Costa, con questa musica ancora una volta irriverente. Francesco Costa, vice direttore del Post, esperto di politica statunitense, potete seguirlo su francescocosta.net. Allora, troviamo un titolo a questa storia d'amore o di odio, cosa facciamo? Luna di miele interrotta, come titoliamo, dai? Ma insomma, c'è mai stata la luna di miele? È interessante forse per porre i confini, no, della questa discussione, perché... Sì. Ci sono tantissimi fattori che si intrecciano in questo rapporto tra Trump e Putin, tra Stati Uniti e Russia, che è un rapporto di rivalità evidente, perché insomma su qualsiasi scenario globale alla fine Stati Uniti e Russia stanno su posizioni diverse. Ci si aspettava che con la vittoria di Trump, il suo insediamento, questo potesse cambiare. In parte è successo, per esempio in Siria le cose sembrano andare leggermente, in modo leggermente diverso da prima, non che vadano d'accordo tra Stati Uniti e Russia, ma sì, qualcosa forse è cambiato. In generale però ci sono tantissime cose sullo sfondo, diciamo. La prima è che in questo momento il presidente Donald Trump è personalmente sotto indagine per aver cercato di ostacolare l'inchiesta dell'FBI, della sua intelligence, sul fatto presunto che il suo comitato elettorale abbia collaborato proprio con la Russia in campagna elettorale e che quindi la Russia abbia interferito nella campagna elettorale americana allo scopo di favorire Trump. Dall'altra parte ci sono per esempio queste sanzioni di cui parlavamo prima, appena approvate dal Congresso a larghissima maggioranza, che hanno forzato un po' la mano di Trump, perché oltre a essere molto dure, queste sanzioni appena approvate prevedono un meccanismo per cui il presidente non può decidere di rimuoverle in modo autonomo, deve sempre chiedere al Congresso. La legge sarà firmata il 28 luglio, è arrivata alla Casa Bianca, la cosa interessante è che Trump non l'ha ancora firmata, quindi diciamo la stessa ritorsione della Russia si basa per il momento sul fatto che il Congresso le ha approvate e la Casa Bianca ha detto che Trump le firmerà, e Trump con ogni probabilità le firmerà. Fatto sta che però non sono ancora state firmate. Quando saranno firmate, forse il disgelo potrà essere archiviato, o forse a questo punto questo disgelo possiamo dire che non c'è mai stato. Per questo forse, ecco, è difficile inquadrare oggi la relazione tra Trump e Putin, benché per moltissime cose siano stati intrecciati questi due personaggi e le loro storie. Forse però Trump non era davvero, magari si è avvantaggiato in modo anche un po' opportunistico delle cose che Putin diceva di lui, se non forse addirittura del sostegno che la Russia gli ha dato, ma non credo che Trump oggi voglia passare per essere un putiniano, ecco. Sì. Poi ti solletico su un SMS che è arrivato da un ascoltatore che è piuttosto interessante, che in qualche modo, gli hai dato il destro citando i vari fronti su cui Stati Uniti e Russia, non vanno esattamente d'amore e d'accordo. Però Francesco, mi pare di poter notare, io che di politica sia statunitense che russa non ne capisco moltissimo, che dal punto di vista delle armi diplomatiche, Trump non è certamente uno che va di fioretto. Questa volta il livello dello scontro si è alzato particolarmente, perché una espulsione così ampia di personale diplomatico è in qualche modo un segnale molto forte. Il linguaggio diplomatico è fatto molto spesso di frasi non dette, di bisbigli, di sussurri, di lasciare intendere, di leggere fra le righe. Questa cosa qua mi sembra, è come se Putin rispondesse con la stessa irruenza, muscolarità e cafonaggine politica, ben inteso, di Donald Trump. Non so se sei d'accordo. Sì, in parte questo è un momento storico che non comincia con l'elezione di Trump, ma che comincia da molto prima, di grande aggressività della Russia, non solo quando l'abbiamo visto in senso anche militare, abbiamo visto in Georgia ormai qualche anno fa, in Crimea, e questa è una mossa che in qualche modo si potrebbe anche definire, nella sua eccezionalità, in qualche modo anche in continuità però quello che è stato l'atteggiamento russo negli ultimi anni. La Russia è una posizione molto aggressiva in generale, tutti gli scenari aperti, nei capitoli globali aperti della comunità internazionale. Dall'altra parte questo è un presidente e questa è un'amministrazione che dimostrano ogni giorno di essere particolarmente disfunzionali, e quindi tutti i meccanismi del soft power che citavi, tutti i meccanismi diplomatici che vanno condotti con un atteggiamento molto consapevole della situazione, serve una certa abilità, una certa esperienza, serve saper utilizzare sfumature, registri diversi anche in un singolo comunicato, anche in un'iniziativa, negli inviti che si fanno ai meeting internazionali, nell'atteggiamento che si tiene. Ecco, la Casa Bianca di Trump è completamente fuori da questo pianeta rispetto a questo tema qui. Nei meeting internazionali ha un atteggiamento molto dilettantesco. Trump si alza dal suo posto e va a parlare con Putin per un quarto d'ora senza portarsi dietro nessun americano, quindi affidandosi solo all'interprete russo, oppure riceve nello studio ovale il ministro degli esteri russo con un traduttore russo, un fotografo russo, senza che nessuno sappia cosa siano detti lì dentro. Etichetta questa sconosciuta, se vogliamo sintetizzare. Francesco, un altro ascoltatore ti solletica su un tema, visto che ieri abbiamo parlato di Venezuela, il paese versa in una crisi molto importante, e gli Stati Uniti hanno dichiarato ufficialmente che sono dalla parte del popolo venezuelano. Un ascoltatore dice: è possibile che il Venezuela diventi un nuovo tassello dello scontro Stati Uniti-Russia, perché gli States non hanno riconosciuto la Costituente, mentre Putin, ricorda Massimo da Cagliari, continua ad appoggiare Maduro. C'è sempre questo gioco su un terzo paese, no? Sì, peraltro è un terzo paese che, come ricordavi, oggi ha un rapporto privilegiato con la Russia rispetto, almeno dal punto di vista politico, rispetto agli Stati Uniti, ma che è legato agli Stati Uniti dal punto di vista economico. Il Venezuela si basa interamente sull'esportazione di petrolio e un grosso pezzo di questo petrolio riguarda anche gli Stati Uniti, imprese americane, per cui ci sono dei legami. E dall'altra parte, senza necessariamente arrivare ai tempi della dottrina Monroe, per cui gli Stati Uniti rivendicavano di esercitare una certa influenza in tutto il continente americano, oggi non sono più quei tempi, ma è vero che gli Stati Uniti conservano rapporti solidi con le istituzioni, la società civile, le imprese di tantissimi paesi dell'America Latina, del continente americano, tra cui il Venezuela. Certo. Che il Venezuela ha guai così profondi che non credo che la loro prima preoccupazione oggi sia appunto lo scontro tra Stati Uniti e Russia sulla loro pelle. Certo. Ma certo questo si aggiunge alla faccenda, perché una delle ipotesi, appunto, gli Stati Uniti hanno appena approvato delle sanzioni contro il presidente Maduro e alcune persone del suo giro. Sì. Tutte le ipotesi che si prendono in considerazione per risolvere la crisi in Venezuela vanno verso un attacco all'attuale establishment venezuelano, il governo venezuelano, e questa è una cosa che comunque non piace alla Russia e che potrebbe diventare un altro pezzetto di questa storia. Grazie mille Francesco Costa, vice direttore del Post, esperto di politica statunitense. La sua newsletter è su francescocosta.net. Grazie mille Francesco, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Allora, era Francesco Costa per quest'ultima pagina dedicata a questo braccio di ferro e questo terzo terreno, il Venezuela, di cui torneremo a darvi conto nelle prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Siamo quasi in chiusura e quindi Pietro alla Corte, i titoli di coda. Con i quali ringrazio Pietro, appunto, che ha dato musica e ritmo a questa puntata, Antonio Talia e Elisa Pancaldi che l'hanno confezionata con me in redazione, voi che siete stati all'ascolto e vi siete appassionati anche quest'oggi ai temi di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è questa sera per la replica ore 20, oppure domattina se siete mattinieri alle 6, se siete a letto, beh, c'è il podcast radio24.it. Io intanto vi saluto, vi auguro una buona giornata, ma vi ricordo che Nessun Luogo è Lontano.